国国际广播电台 Qui Radio Cina Internazionale。 State ascoltando Radio Cina Internazionale, amici ascoltatori, ben ritrovati. Ecco il sommario delle principali notizie odierne. Ambasciatore cinese negli Stati Uniti, replica alle parole del segretario alla difesa americano. L'ETA visita Lambo in Germania per ottenere l'appoggio del partner europeo. Alle notizie seguiranno una pagina di commento, le rubriche Il settimanale della cultura e cinese per ogni giorno. Eccovi ora il nostro notiziario. Il 30 aprile l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Cui Tiankai, ha affermato in occasione di un'intervista concessa ad alcuni media cinesi che le parole pronunciate alcuni giorni fa dal segretario alla difesa americano Chuck Hagel e relative alla questione dell'isola Diaoyu non corrispondono alla verità. L'ambasciatore ha sottolineato che è stato il Giappone ad adottare iniziative unilaterali e minacce e non la Cina. Il giorno precedente, in un incontro con i giornalisti e insieme al ministro della difesa giapponese, Isunori Onodera, Hago ha dichiarato che secondo gli Stati Uniti l'isola Diaoyu è sotto l'amministrazione del Giappone e il trattato di cooperazione e sicurezza reciproca fra gli Stati Uniti e Giappone è valido anche per l'isola Diaoyu. Gli Stati Uniti si sono opposti a qualsiasi iniziativa unilaterale o a minacce che danneggerebbero l'amministrazione giapponese. E il capo degli Stati Maggiori riuniti, Martin Dempsey, ha trasmesso questo messaggio alla parte cinese in occasione della sua ultima recente visita in Cina. In merito a questo problema, Cui Tiankai ha affermato che alcune dicerie rilasciate da Hago sulla visita di Dempsey e sul colloquio con la parte cinese non corrispondono alla realtà. Cui Tiankai ha aggiunto che la Cina e Dempsey hanno proceduto ad un profondo scambio di vedute. La parte cinese ha affermato in modo esplicito che la sua posizione e le sue opinioni è convinta che la parte americana abbia ricevuto il comunicato del colloquio e che dovrà avere una comprensione reale sulla situazione. Il 1 maggio a Beijing, il vice ministro degli affari civili cinese, Tou Yupei, ha comunicato che entro il 2015 i servizi domiciliari e sociali per gli anziani copriranno tutte le città e il 50% delle campagne cinesi. Per l'occasione, la Cina costituirà una rete di servizi domiciliari per gli anziani convenienti di ampia copertura e di diverso tipo. Il vice ministro ha illustrato che in un lontano futuro la Cina dovrà fronteggiare sfide difficili per l'invecchiamento della popolazione. Alla fine del 2012, i cittadini ultra sessantenni hanno raggiunto quota 194 milioni, il 14,3% della popolazione totale. Si prevede che nel 2013 la popolazione anziana supererà i 200 milioni. Mentre nel 2034 gli anziani saranno più di 400 milioni. Secondo i dati emessi congiuntamente il 1 maggio dal Centro d'Indagine del Settore di Servizi dell'Amministrazione Statale delle Statistiche e dall'Associazione Nazionale della Logistica e dell'Acquisto, nell'aprile scorso l'indice BMI cinese è sceso al 50,6%, 0,3 punti in meno rispetto al mese precedente, rimanendo per 7 mesi consecutivi ad un livello superiore rispetto al punto critico. Nel relativo rapporto di analisi, l'indice PMI dello scorso aprile dimostra che attualmente l'andamento economico cinese è stabile, ma la forza di crescita dell'economia deve essere ancora rinvigorita. Il 30 aprile, dopo aver ottenuto la fiducia sia della Camera che del Senato, il neoeletto presidente del Consiglio Enrico Letta ha compiuto una visita a Lambo in Germania. Dopo essere giunto a Berlino, Letta e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, in occasione della quale il premier italiano ha sottolineato che il paese continuerà nella politica di austerità finanziaria con iniziative e forte senso di responsabilità. Al contempo, Letta auspica che l'Italia, insieme all'Europa, in particolare con la Germania, possa risolvere l'attuale crisi e realizzare uno sviluppo comune. Dalgando suo, la cancelliera ha sottolineato che l'Italia sta percorrendo la strada giusta per uscire dalla crisi e dovrà continuare ad adottare misure di austerità. Secondo la Germania, l'applicazione dell'austerità finanziaria e la realizzazione della crescita economica non sono in contraddizione, e solo risolvendo entrambe le questioni sarà possibile realizzare l'aumento della competitività e dell'occupazione. A seguito della conferenza stampa, i due leader hanno tenuto un colloquio su problemi concreti. Dopo la breve visita in Germania, Letta visiterà anche Bruxelles e Parigi. Il 1 maggio il governo sudcoreano ha sollecitato nuovamente la Corea del Nord ad annullare le misure ingiuste e riprendere la produzione nella zona industriale di Kaesŏng. Durante la conferenza stampa tenuta lo stesso giorno, il portavoce del Ministero dell'Unificazione della Corea del Sud, Kim Hyeong-sik, ha detto che il problema dell'area industriale di Kaesŏng è stato causato dalle misure ingiuste adottate dalla Corea del Nord. Il governo sudcoreano ha indicato più volte alla Corea del Nord che la porta del dialogo è ancora aperta e che le due parti devono risolvere il problema proprio attraverso il dialogo. Kim Il-seok ha aggiunto che la Corea del Nord deve fare una scelta giusta e accettare la proposta al dialogo con la Corea del Sud in modo da riprendere le normali attività nell'area industriale di Kaesŏng. Il 30 aprile, alla Casa Bianca, il presidente americano Barack Obama ha dichiarato che il problema sull'utilizzo di armi chimiche in Siria non può essere risolto in fretta e furia, e che non adotterà ulteriori iniziative prima di avere prove assolutamente evidenti in merito. Lo stesso giorno, in occasione della 100ª giornata del suo secondo mandato, Obama ha tenuto una conferenza stampa, durante la quale ha affermato che, sebbene la parte statunitense abbia avuto la prova dell'utilizzo delle armi chimiche all'interno del territorio siriano, non è ancora chiara la modalità, il momento e chi abbia utilizzato queste armi. Prima di prendere ulteriori decisioni, serviranno garanzie su quanto avvenuto in realtà, e ciò corrisponde anche alle speranze del popolo americano. Il 30 aprile, il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Martin Sirki, ha affermato che il gruppo d'indagine dell'ONU sulle armi chimiche in Siria è già pronto, ma che non ha ottenuto ancora il via libera dal governo siriano. Rispondendo lo stesso giorno alle domande dei giornalisti, durante la conferenza stampa di Houthi presso la sede generale delle Nazioni Unite a New York, Sirki ha detto che nel marzo scorso il segretario generale Ban Ki-moon ha costituito una commissione d'indagine per investigare sul possibile utilizzo di armi chimiche in Siria. Attualmente il gruppo è pronto a portare avanti i lavori, tuttavia il governo siriano non ha ancora dato il suo permesso. Sempre il 30 aprile, tramite il suo portavoce, il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso la sua preoccupazione per la serie di violenze avvenute di recente in Iraq. Ban Ki-moon si è appellato ai leader delle diverse fazioni irachene affinché risolvano la crisi politica all'interno del paese attraverso il dialogo. Secondo quanto dichiarato, Ban Ki-moon ha espresso la sua profonda preoccupazione nei confronti dei frequenti atti di violenza avvenuti nel corso dell'ultima settimana in diverse città irachene e delle conseguenti gravi perdite umane. Egli ha invitato non solo le forze di sicurezza irachene a mantenere il più possibile l'autocontrollo mentre prestano servizio, ma anche i manifestanti a tenere un comportamento pacifico durante le manifestazioni. Inoltre, Ban Ki-moon si è appellato ai leader delle varie fazioni irachene affinché portino avanti un dialogo costruttivo e inclusivo, risolvendo l'attuale crisi politica del paese con forte determinazione. Il 30 aprile il Parlamento di Cipro ha approvato con una lieve maggioranza l'accordo d'assistenza per un totale di 10 miliardi di euro raggiunto dal governo cipriota e dell'Eurogruppo. Il 25 marzo del 2013 il governo cipriota e l'Eurogruppo hanno raggiunto un accordo d'assistenza per un totale di 10 miliardi di euro, di cui 9 miliardi provengono dal Meccanismo europeo di stabilità, mentre 1 miliardo dal Fondo monetario internazionale. Con l'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento cipriota, il Paese avrà la possibilità di ottenere il prima tranche di aiuti nella prima decade di maggio. Pagina ti commento. Il 30 aprile si è conclusa l'esercitazione militare annuale congiunta USA-Corea del Sud, dal nome in codice Avvoltoio. Questa esercitazione, insieme alla precedentemente conclusa Key Resolve, è stata considerata da parte della Corea del Nord come una grave provocazione e una mobilitazione per una guerra di aggressione. Per questo motivo, il resto del mondo ritiene che, con la fine dell'esercitazione, la situazione nella penisola coreana possa migliorare. Al contempo, però, il parco industriale Kaesong, che segna i risultati della cooperazione economica tra le due Coree, si trova per la prima volta dalla sua realizzazione in uno stato di abbandono, gettando un'ombra sulla situazione della penisola. Alcuni media hanno sottolineato che la situazione della penisola potrà migliorare, ma che questa è strettamente connessa alle condizioni attuali. Da un lato, l'esercitazione militare annuale USA-Corea del Sud di quest'anno è stata effettuata proprio a seguito del terzo test nucleare nordcoreano, avvenuto nel mese di febbraio. Per l'esercitazione, i militari degli Stati Uniti non solo hanno mobilitato, come avvenuto in precedenza, più di 10.000 soldati provenienti da basi d'oltreoceano, ma hanno anche utilizzato per la prima volta dei bombardieri B-52 e B-2, entrambi con capacità di attacco nucleare strategico, e caccia di quarta generazione F-22. Nonostante, come gli anni precedenti, sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti abbiano specificato la natura difensiva dell'esercitazione militare e abbiano comunicato in anticipo il programma della Corea del Nord, a causa della particolare situazione, l'esercitazione di quest'anno ha generato maggiore preoccupazione a Pyongyang. Il governo nordcoreano ha già più volte affermato che questo evento costituisce una grave provocazione e una preparazione ad una guerra nucleare di aggressione contro la Corea del Nord. E lo ha preso a pretesto per annunciare l'abolizione dell'accordo di armistizio, insieme ad una serie di accordi di non aggressione tra le due Coree. D'altra parte, vista la sua forte contrarietà nei confronti dell'esercitazione militare congiunta USA-Corea del Sud, Pyongyang ha di recente affermato che, se come condizione preliminare la Corea del Sud e gli Stati Uniti porranno termine all'esercitazione e se le truppe USA ritireranno tutte le loro armi con capacità di attacco nucleare, la Corea del Nord potrà sedersi al tavolo del dialogo. Sulla base di questi due punti e nel contesto della fine dell'esercitazione, alcuni analisti esterni credono che questo sia il momento adatto per riallacciare il dialogo tra le due Coree e tra la Corea del Nord e gli USA, contribuendo così alla distensione. Tuttavia, da un punto di vista pratico, l'andamento della situazione della penisola è ancora incerto. Da un lato, nonostante l'esercitazione militare sia terminata, è stato riferito che le marine degli Stati Uniti e della Corea del Sud potranno effettuare un'ulteriore esercitazione antisommergibile e che estenderanno il periodo di stanziamento dei sottomarini nucleari statunitensi in Corea del Sud. Da parte nordcoreana, stando a fonti militari della Corea del Sud, le 9 batterie missilistiche mobili trasferite nelle zone costiere orientali della Corea del Nord all'inizio di aprile sono pronte al lancio, che può essere eseguito in qualsiasi momento. Inoltre, al momento attuale, oltre ai movimenti militari delle due Coree, un altro importante fattore per considerare le relazioni nord-sud risiede nella difficile situazione dell'area industriale Kaesong, che segna i risultati della cooperazione economica tra le due Coree dopo la guerra. I media della Corea del Sud ritengono in genere che, durante la precedente legislatura del loro governo, i rapporti con la Corea del Nord erano al loro momento peggiore, ma anche in quella situazione la zona industriale di Kaesong non aveva subito contraccolpi. All'inizio dell'insediamento del nuovo governo, la Corea del Sud ha promosso il processo di costruzione della fiducia nella penisola coreana, sostenendo contemporaneamente una politica di pressione e di dialogo con la Corea del Nord. Tuttavia, ora, la zona industriale di Kaesong si trova di fronte al rischio di abbandono. Pertanto, non è ancora chiaro se la situazione della penisola possa andare verso la distensione. L'opinione pubblica della Corea del Sud ritiene che due sono gli indicatori chiave per determinare l'andamento della situazione. Il primo riguarda la futura disposizione delle forze missilistiche della Corea del Nord e l'altro è connesso al destino della zona industriale di Kaesong. Il 30 aprile il Ministero dell'Unificazione della Corea del Sud ha affermato che, anche se il paese ha ritirato tutto il personale dall'area industriale di Kaesong, la proposta di dialogo rivolta in precedenza alla Corea del Nord è ancora valida. Questo mostra il desiderio della Corea del Sud di evitare la completa chiusura della zona. Radio Cina Internazionale trasmette quotidianamente sulle onde medie dalle 19 alle 20 ore italiana sulla frequenza di 1458 kHz. Radio Cina Internazionale, il settimanale della cultura. Radio Globale, cari amici, ben ritrovati al nostro programma Un Tè con la Cultura. Lo scorso mese presso il Regis Hotel è stata inaugurata la mostra Italian Village, che è stata ospitata a marzo il China National Convention Center di Beijing. All'evento hanno partecipato l'ambasciatore d'Italia in Cina, Alberto Bradanini, e il direttore della Camera di Commercio Italiana in Cina, Antonino Laspini. Per la mostra sono stati esposti numerosi prodotti di sport italiani e i modelli artistici italiani e cinesi ci hanno presentato una meravigliosa sfilata in merito. Dopo l'evento abbiamo l'onore di avere un'intervista alla Spina. Di seguito ascoltiamo insieme la nostra intervista verso il direttore della Camera di Commercio Italiana in Cina. Noi siamo di Radio China Internazionale, insomma vorremmo farle una serie di domande su una breve intervista. Sono qui. E la prima cosa che vorrei domandarle è: come vede nell'ambito di questi prodotti, come vede lo sviluppo tra Italia e Cina, ovvero una collaborazione tra le aziende italiane e le aziende cinesi in questo campo? Ma io penso che in questo, come in tanti altri settori, il diverso posizionamento dei prodotti consente ai due sistemi industriali dei paesi di trovare dei momenti, diciamo, di successo sui reciproci mercati. Normalmente si è portati a pensare che se io sono specializzato in un particolare settore, che poi è lo stesso dell'altro paese, ci sia solo ed esclusivamente competizione. Se così fosse, sarebbe un grosso problema per i rapporti tra Italia e la Cina. La verità è che la specializzazione merceologica dei due paesi, anche se a prima vista può sembrare più o meno identica, differisce notevolmente perché è diverso il posizionamento di mercato. Noi siamo qui in quello che è destinato a diventare il più grande mercato al mondo anche in questo settore, presentando dei prodotti che hanno una loro storia, sono risultato di una grande tradizione nel settore del tessile, nel settore delle fibre speciali, nel settore di materiali speciali, e siamo anche qui con innovazione nel design, nel prodotto, siamo anche con la forza di un brand, il brand Italia, il brand delle varie aziende, il brand dei territori. Abbiamo aziende che sono attive da 60, 70 anni, da 50 anni, e quindi hanno la forza della storia e della tradizione con loro. E ne è un caso quindi che noi da anni facciamo ISPO e da anni le nostre imprese hanno deciso che ISPO è una manifestazione che consente di entrare sul mercato cinese e cresciamo su questo mercato. Thank you. quindi le prospettive sono sicuramente interessanti, perché così come sta succedendo in altri settori, questo è un settore dove sempre di più il consumatore cinese si andrà a differenziare da un consumatore di massa iniziale che ha consumato indifferentemente i prodotti cinesi di alta e bassa qualità, si andrà a differenziare scegliendo il prodotto che rappresenta la qualità prima e poi, se vogliamo, anche il suo status certo, sociale, il suo gusto, i colori, lo stile di vita. Quindi noi vediamo, e non è un caso appunto che abbiamo pensato a questo tipo di comunicazione, grandi prospettive. Un evento come questo, che consente, al di là della manifestazione fieristica che abbiamo fatto e che è in corso, di raggruppare, come avete visto, un 300 tra giornalisti, operatori del settore, distributori, retailers, insomma gente che vive di questo business, e consente di costruire un network interessante, quello di espandere, no, i rapporti, di far conoscere la qualità italiana, far conoscere questa diversità italiana rispetto a quella che è, diciamo, la produzione uniforme, diciamo. Esatto. Quindi questa è un'occasione in cui quello che può sembrare un settore così abbastanza uniforme si va a declinare attraverso varie forme, con numeri assolutamente interessanti di interpretazioni della scarpa da sci, dei bastoni da sci, degli abiti speciali, che poi dalla parte tecnica sconfinano in un aspetto che diventa naturalmente quasi fashionable, no? Nei colori, negli stili, nei design. Quindi la fiducia è estrema, siamo convinti che in questo, come in tanti altri settori, il Made in Italy si sta facendo strada e che con questo tipo di attività, ma soprattutto con la capacità di realizzare eventi come questi, che consentono di aggregare le imprese medio-piccole in eventi che hanno un forte impatto, le prospettive diventano assolutamente interessanti. Certo, prospettive di cooperazione e via dicendo. Ecco, poi ci sono naturalmente quei casi di collaborazione in cui i due sistemi sono complementari. L'Italia ha dalla sua il design, la creatività, la Cina ha una forte struttura produttiva. Per quei prodotti in cui l'elemento di competitività è rappresentato dal fattore, diciamo, qualità, il prodotto non si sposterà mai dall'Italia. Esatto. Laddove invece il fattore di competitività è il prezzo, cioè il problema è di produrre grandi quantità, di produrre quantità che possono soddisfare il mercato cinese, ecco che in questo settore si può lavorare attraverso forme di collaborazione, di cessione di licenza, di cessione di brand. E nel settore, per esempio, dell'abbigliamento sportivo, delle attrezzature sportive, questo è un fatto assolutamente normale. Ma resta fermo il fatto che le nostre aziende continuano ad avere, come si dice, la mente in Italia, le braccia in Cina, perché il Made in Italy, o il prodotto concepito in Italia, è sempre di un livello superiore, non c'è un dubbio. Ma quali sono le principali difficoltà che si possono incontrare in questo settore, lavorando e, diciamo, investendo anche in questo settore? Ma questo è un settore che per ora, come in tanti casi in Cina, assistiamo a un fenomeno di massa. Cioè milioni di persone in Cina cominciano a pensare che può essere bello, interessante passare un weekend, alcuni giorni nelle stazioni sciistiche, ed è naturale quindi che ancora i numeri di gente che si vada a dotare della propria attrezzatura, del proprio abbigliamento, della personalizzazione del proprio abbigliamento, è molto limitato, perché centinaia di migliaia di persone vanno in questi centri sciistici, affittano tutte le attrezzature, dopo due giorni non hanno più l'ingombro a casa, non lo portano a casa, e quindi così vivono queste esperienze. Ma è chiaro che questo paese, così come è successo in tanti altri paesi al mondo, anche nella stessa Asia, vent'anni fa, trent'anni fa cominciavano queste storie in Corea, in Giappone, oggi lì c'è un sistema della cultura, diciamo, degli sport invernali molto sviluppato, quindi la Cina segue su quella via. Le condizioni climatiche ci sono anche le condizioni economiche, è un fatto culturale. Gli cinesi non sono stati sugli sci, hanno bisogno di imparare cosa significa non solo sciare, ma vivere l'esperienza della stagione sciistica, ma vivere l'esperienza di un soggiorno in una stazione sciistica. Ecco, su questo noi possiamo fare tanto, perché noi siamo un modello di vita, siamo ancora una volta un modello di lifestyle. Quindi le prospettive sono importanti, perché laddove si dovrà, come dire, lavorare per educare questi milioni di cinesi all'attività sciistica, le risorse potranno essere o quello di fare degli investimenti in Cina per la Cina, quindi vado a realizzare dei prodotti che vanno a sostituirsi a quei prodotti di qualità scadente che oggi vengono usati da milioni di cinesi, oppure, così come è successo nel sistema della moda, essere fornitori, supplier, di un prodotto di estrema qualità che va a intercettare quelli che sono i bisogni e i piaceri di quella classe di consumatori che dice: io voglio avere il prodotto più affidabile, voglio essere sicuro che quando mi si dice che si sia usato un filato tecnico che consente di avere la traspirazione e via di seguito, ho la certezza che sia questo. Certo, e quindi ancora una volta guarda l'Italia come al modello che queste cose le ha sviluppate, le ha testate, le ha messe a fuoco, le ha messe a punto e pertanto in quanto tale affidabile. Thank you. E un'ultima domanda, abbiamo saputo che ad aprile ci dovrebbe essere la settimana dell'Italia, cioè una settimana, il 3 aprile forse, c'è una specie di attività dedicata all'Italia, dove parteciperanno anche altri enti, insomma. Guardi, qui c'è un fiorire di attività che non può che far piacere. Noi come attività dell'ICE siamo in questo momento concentrati su due filoni molto importanti. Uno è quello che vede un'azione di promozione molto molto articolata nel settore della promozione dell'arredo e dei mobili dall'Italia, e che vede la realizzazione di un seminario la prossima settimana a Milano e Firenze, e che vede anche l'organizzazione di una importante delegazione al Salone del Mobile di Milano ad aprile. Nello stesso tempo abbiamo anche l'impegno, che è un impegno classico di fine marzo, delle due manifestazioni che, diciamo, fanno da traino a quella che è l'attività della promozione del sistema tessile abbigliamento italiano. Milano Unica, che si ripresenta di nuovo a Pechino con un padiglione che supera i 1000 metri quadri, con un centinaio e più di aziende nel settore dei tessuti. E poi la Chic, che è l'edizione classica dell'abbigliamento, che si tiene qui a Pechino da diversi anni, dove con il padiglione italiano organizzato dall'ICE parteciperemo con più di 100 aziende su un'area di 1000 metri quadri. Io penso che sono queste, diciamo, le attività che danno il senso e la dimensione di come, pur con tutte le difficoltà che ci sono in Italia, ci sono delle aziende che sono ancora molto aggressive sul mercato cinese, che hanno comunque messo a punto una strategia, a volte anche abbastanza minimalistica, no? Di presenza sul mercato, ma che sono consapevoli del fatto che bisogna fare un ultimo sforzo per non bruciare quello che è stato fatto negli anni precedenti, partendo dal presupposto che tassi di crescita come quelli che ancora si continuano a registrare in Cina possono costituire una soluzione a dei grossi problemi per le aziende italiane, perché molte di loro cominciano appunto a capire che in Cina esiste una capacità ricettiva, pur con le difficoltà che il mercato presenta, con la concorrenza che viene fatta dalle aziende cinesi, e questo è innegabile, ma è certamente, come dicevamo prima, il mercato dove il posizionamento del prodotto italiano può andare a soddisfare le esigenze, i bisogni, i desideri di questo tipo di consumatore cinese, che oggi non è più costituito da centinaia di migliaia di persone, ma è costituito da qualche centinaio di milioni di persone. Il nostro vero problema è che dobbiamo educarlo alla qualità, dobbiamo educarlo anche nel gusto, nella scelta, nel selezionare il prodotto proprio sulla base della qualità e del gusto. È una strada che 10 anni fa sembrava lunghissima, in effetti la crescita economica cinese l'ha molto accorciata. Tocca a noi ora contribuire un po' di più ad accorciarla ancora di più. Cari amici, nell'odierno programma Un Tè con la Cultura vi presenterò una serie di canzoni popolari interpretate dalla cantante di Taiwan, Tsai Qin. Per primo ascoltiamo In quel posto lontano. 那粉红的笑脸和那美丽金边的衣裳。我愿做一只小 Il motivo che state ascoltando è In posto lontano cantato da Cai Qin, un pezzo adattato da una canzone popolare del nord-ovest della Cina dal compositore Wang Luobin, la cui melodia è elegante, dotata di emozioni ed intrisa di poesia. La voce profonda e l'interpretazione passionale hanno accresciuto la bellezza della musica. Nella canzone si dice fra l'altro: in quel posto lontano c'è una brava ragazza. Quando la gente passa dalla sua tenda, volta la testa a guardarle riluttante ad andarsene. La sua faccia rossa sorridente è come un sole. I suoi occhi vivaci assomigliano alla luna luminosa serale. Nell'ambito della musica cinese, la cantante di Taiwan Cai Qin è un albero sempreverde. È diventata famosa alla fine degli anni 70 del secolo scorso con la canzone È proprio come la tua tenerezza. Da allora, con la sua voce profonda e ferma ad uno stile interpretativo elegante e raffinato, Cai Qin ha conquistato l'amore di ascoltatori di diverse età. Essendo sul palcoscenico per più di 30 anni, Cai Qin ha pubblicato rispettivamente più di 40 album e ha vinto i premi in vari tipi di concorsi musicali. Nel 2004, Cai Qin ha pubblicato il suo 42esimo album Sotto la luce argentea della luna. È un album di canzoni popolari, all'interno del quale Cai Qin ha assunto la supervisione della produzione, scegliendo 13 canzoni tra più di 200 motivi popolari cinesi. In quel posto lontano, Gelsomini, Nel chiarore argenteo della luna, Canzone d'amore di Kang Ding e altre canzoni tradizionali classiche cinesi. Dopo l'adattamento, si dimostrano con una faccia nuova davanti alla gente e portano agli ascoltatori un diverso godere d'ascolto. Passiamo ora ad ascoltare una canzone dallo stesso nome di tale album, Nel chiarore argenteo della luna. 在那金色沙滩上，洒片银白的月光，寻找往事踪影，往事踪影迷茫，寻找往事踪影，往事踪影迷茫。往事聪明 茫，犹如幻梦一样。你在何处躲藏？背弃我的姑娘，你在何处躲藏？背弃我。 Chiarore argenteo della luna è una canzone popolare diffusa dell'etnia Tatar nel Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. La melodia è lirica e elegante e parla dei ricordi amorosi del passato della gente. Nella canzone si dice fra l'altro: sulla spiaggia d'argento si diffonde il chiarore pallido della luna. Cerco le confuse tracce del passato. Le orme di ciò che è stato sono ormai indistinte come il sogno. Dove ti nascosti tu, ragazza mia lontana da tempo? 彩虹白云间，满天的落花迷离谁的眼眸间，仰头望青天，把酒当个对笑颜，只羡鸳鸯不羡仙。荷塘风拂面，花儿婆娑叶儿圆，知己伴身边，此情永刻在心田。谁附在耳边倾吐不尽的誓言，相约对月无眠无翩翩。唱一遍一遍，任谁都听得见，我闭上眼许下心愿。停住这时间，只留互诉的思念，见证夜夜花好月圆。画面不知是谁害羞的脸，又是雨点点丝丝缠绵的眷恋，如诗如画的天上人间。荷塘风拂面，花儿婆娑叶儿圆，知己伴身边，此情永刻在心田。谁附在耳边倾吐不尽的誓言， 相约对月无眠无翩翩，唱一遍一遍，任谁都听得见，我闭上眼许下心愿。 用你的母语学汉语，每日汉语。 Cinese per ogni giorno. Studiamo il cinese sulla base della nostra lingua madre, l'italiano. State ascoltando Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, benvenuti al programma Cinese per un giorno, sono Shan. Ciao a tutti, sono Ilenia. Nella lezione precedente abbiamo discusso come ci si esprime in cinese durante le visite ai malati in ospedale. È vero, cominciamo con un breve ripasso. Ni hao dian le ma? Stai meglio? Hao dian le ma? Hao dian le, stare meglio. Hao dian le. 在医院里真没意思。La degenza in ospedale è davvero noiosa。 在医院里真没意思。 在医院里 in ospedale。 在医院里 真没意思。È davvero noioso。 真没意思。 你这个星期能出院吗？ 你这个星期能出院吗？Potrai essere dimesso in settimana? Zhege xingqi in settimana. Zhege xingqi. Neng chu yuan, poter essere dimesso. Neng chu yuan. L'ultima frase della scorsa lezione. Zhu ni zao ri hui fu jian kang. Ti auguro di rimetterti al più presto. Zhu ni zao ri hui fu jian kang. 早日 al più presto. 早日 恢复健康 rimettersi. 恢复健康 Ora passiamo alle frasi chiave di oggi. Yǒu mèi yǒu ban che? Mèi tiān jǐ diǎn jiē sòng?端午节我们放三天假，这张贺卡送给您。 Grazie ancora Shan per l'aiuto che mi hai offerto nello studio di frasi utili per la visita di amici in ospedale. È un piacere per me. Ora passiamo a un altro tema, parliamo della vita scolastica. Pare molto interessante. Cominciamo dall'asilo. A titolo di ipotesi.Io sono il maestro e tu sei la madre del bambino. Bene, cominciamo. La mia prima domanda è, c'è l'autobus navetta? Puoi dirmi come si dice in cinese? Certo, puoi dire. 有没有班车? C'è l'autobus navetta? 有没有班车? 有, al terzo tono, significa avere. 有 Meio al secondo e terzo tono significa non avere. Meio. Banche entrambi al primo tono. Autobus navetta. Banche. You meio banche. You meio banche. C'è l'autobus navetta. 你好，请问你们学校有没有班车？ 我们这儿有班车。 有没有 esserci o meno? 有没有？ 班车 autobus navetta 班车 有没有班车 c'è l'autobus navetta 有没有班车 La prossima domanda che voglio fare è A che ora prendete e riportate il bambino? Una cosa molto importante per la mia organizzazione del tempo Puoi dire 每天几点接送 每天几点接送 每天Ogni giorno si legge al terzo e al primo tono. Mei tien. Jidien, a che ora? Jidien. Jie sung, al primo e quarto dono significa prendere e riportare. 接送. 每天几点接送? 每天几点接送? A che ora prendete e riportate il bambino? 每天几点接送? 早上8点去接, 傍晚5点送回去. 每天, ogni giorno. 每天. 几点, a che ora? 几点? 接送 significa prendere e riportare. 接送. 每天几点接送? A che ora prendete e riportate il bambino? 每天几点接送? 从今年起,端午节我们放3天假. Da quest'anno, per la festa delle Barche Drago, facciamo una vacanza di 3 giorni. Ottimo! Noi diciamo, 端午节, 我们放3天假. 端午节, 我们放3天假. 端午节, la festa delle Barche Drago, che cade il 5º giorno del 5º mese lunare. 端午节, 我们, noi. 我们. 放假, entrambi al 4º dono. Facciamo una vacanza. 放假. 三天, 3 giorni. 三天. 端午节, 我们放3天假. 端午节, 我们放3天假. Per la festa delle Barche Drago facciamo una vacanza di 3 giorni. 端午节, 我们放3天假. 祝您节日快乐. 端午节, Festa delle Barche Drago. 端午节. 放3天假. Fare una vacanza di 3 giorni. 放3天假. 端午节我们放3天假. Per la festa delle Barche Drago facciamo una vacanza di 3 giorni. 端午节我们放3天假. Shan, il mio bambino vuole regalare un biglietto di auguri al suo migliore maestro. Voglio insegnargli a dire in cinese, questo biglietto di auguri è per lei. Potresti dirmi come si dice? È semplice. 这张贺卡送给您. 这张贺卡送给您. 这, questo, al 4º tono. 这. 张, primo tono, è il classificatore di biglietto, carta, eccetera. 张. 贺卡. 4º e 3º tono significa biglietto di auguri. Heka. Sun, 4º tono significa offrire. Sun. Gei, dare. Gei. Nin, forma di rispetto di ni. Nin. 这张贺卡送给您. Questo biglietto d'auguri è per lei. 这张贺卡送给您. 这张贺卡送给您. 真漂亮. 谢谢. 这张贺卡, questo biglietto d'auguri. 这张贺卡, 送给您, per lei. 送给您. 这张贺卡, 送给您. 这张贺卡, 送给您. Abbiamo trasmesso il dialogo completo di oggi. Speriamo che abbiate capito tutti. Ora passiamo alle note di cultura cinese. 朋友遍天下. Note di cultura cinese. In Cina i bambini da 3 a 6 anni frequentano l'asilo, dove giocano imparando anche alcune semplici tecniche, come disegnare, fare dei lavoretti manuali e leggere libri illustrati. Nell'odierna società, la competizione si fa sempre più accanita. Quindi molti genitori auspicano che i loro bambini apprendano più tecniche all'asilo, così da non essere svantaggiati in partenza. Quindi gli asili che offrono la formazione negli strumenti musicali e nelle lingue straniere sono molto apprezzati. La lezione di oggi termina qui, come al solito.